19. Visite angeliche. La signora Hale era stranamente divertita e interessata all'idea della cena dei Thornton. Continuava a preoccuparsi dei dettagli con la semplicità di un bambino che vuole in anticipo la descrizione di tutti i divertimenti che attende. La monotonia della loro vita rende spesso i malati come i bambini, perché sia gli uni che gli altri hanno di fatto poco senso della misura e sembrano tutti credere che le pareti e le tende che delimitano il loro mondo, impedendo a tutto il resto di entrare, debbano essere necessariamente più grandi di qualsiasi altra cosa vi si nasconda dietro. Inoltre la signora Hale aveva avuto le sue vanità di ragazza e forse aveva capito di averle ingiustamente mortificate dopo essere diventata la moglie di un povero reverendo. Le aveva frenate e soffocate, ma erano ancora lì e le piaceva il pensiero di vedere Margaret vestita per andare a una festa. E discuteva su ciò che avrebbe indossato con un'agitazione eccessiva che divertiva invece la figlia, che in un solo anno ad Harley Street si era abituata agli eventi mondani più di quanto avesse fatto la madre in 25 anni a Helston. Allora, pensi di indossare il tuo abito di seta bianco? Sei sicura che ti vada bene? È passato quasi un anno dal matrimonio di Edith. Oh sì, mamma, l'ha fatto la signora Murray e sicuramente mi andrà ancora bene. Magari può essere appena più largo o più stretto di vita a seconda che io sia dimagrita o ingrassata, ma penso di non essere cambiata affatto. Non faresti meglio farlo vedere a Dixon? Potrebbe essersi ingiallito restando nell'armadio. Come desideri, mamma. Ma nel peggiore dei casi ho un bellissimo scialle rosa che mi ha dato zia Shaw soltanto 2 o 3 mesi prima del matrimonio di Edith. Quello non può essere ingiallito. No, ma magari è sbiadito. Ora ne ho uno di seta verde. Penso piuttosto di avere l'imbarazzo della scelta. Vorrei sapere cosa indosserai, disse la signora Hale con un certo nervosismo. Margaret cambiò subito atteggiamento. Beh, vado a provarli, mamma, prima uno e poi l'altro, così potrai scegliere quello che ti piace di più. Ma sì, forse è la cosa migliore. Così Margaret andò e si sentiva molto in vena di scherzare dopo essersi messa in gingheri a un'ora così insolita. Faceva finta che il suo prezioso palloncino di seta bianca fosse una forma di formaggio e si teneva a una certa distanza dalla madre come se fosse una regina camminando un po' all'indietro. Ma quando si accorse che questi scherzetti venivano presi come distrazioni in quella faccenda ritenuta importante, tanto da infastidire la madre, si fece seria e composta. Perché il mondo, il suo mondo, si desse tanta pena per il suo vestito, Margaret non riusciva proprio a capirlo. Ma quel pomeriggio, facendo presente il suo impegno a Bessie Higgins a proposito della domestica della quale la signora Thornton aveva promesso di informarsi, questa si ridestò tutta eccitata alla notizia. Oh, santo cielo! E cenerete a casa dei Thornton a Marlborough Mill? Sì, Bessie, perché ti sorprende tanto? Beh, non so, ma quelli frequentano la gente bene di Milton. E pensi che noi non ne facciamo parte, Bessie? Bessie arrossì leggermente, accorgendosi di essere stata letta nel pensiero con tanta facilità. Beh, disse, vedete che questi qui hanno un sacco di soldi e penso che voi non ce ne avete tanti. No, disse Margaret, hai perfettamente ragione, ma siamo persone colte e abbiamo vissuto in mezzo a gente colta. Che cosa c'è di così meraviglioso nell'essere invitati a cena da un uomo che riconosce la sua inferiorità nei confronti di mio padre, prendendo lezioni da lui? Non intendo biasimare il signor Thornton, sono pochi i commessi di una draperia, come è stato lui un tempo, a essere riusciti a diventare quello che è ora. Ma ce la fate a ritornargliela a loro la cena nella vostra casetta? La casa di Thornton è 3 volte più grande. Bene, penso che potremmo farcela a ritornargliela la cena al signor Thornton, come dici tu. Magari non in una stanza così grande né con così tante persone, ma a questo non abbiamo proprio pensato. Voi a cena coi Thornton? Mai me lo immaginavo, ripeté Bessie. Perché il sindaco in persona ci va a cena lì, e i membri del Parlamento e tutto. Penso di riuscire a sopportare il privilegio di conoscere il sindaco di Milton. Ma quelle signore ci hanno vestiti così lussuosi, disse Bessie, osservando preoccupata l'abito di tessuto stampato di Margaret che a occhio una di Milton come lei valutava a 7 scellini al metro. Margaret scoppiò in un'allegra risata che le riempì il volto di fossette. Grazie, Bessie, sei così gentile a preoccuparti che io non sfiguri tra tutta quella gente alla moda. Ma sono piena, Gli abiti meravigliosi. Una settimana fa avrei detto che erano fin troppo eleganti per qualsiasi cosa avessi ancora desiderato fare. Ma dal momento che devo andare a cena dal signor Thornton e magari devo anche conoscere il sindaco, indosserò il vestito più bello che ho, stanne certa. E che cos'è che vi metterete? Chiese Bessie con un certo sollievo. Un abito di seta bianca, rispose Margaret. L'ho indossato al matrimonio di una cugina un anno fa. Oh, sarà perfetto, disse Bessie ricadendo all'indietro sulla sedia, che a me non mi va mica bene che vi guardano dall'alto in basso. Oh, mi starà abbastanza bene se è questo che mi salverà dall'essere guardata dall'alto in basso a Milton. Vi ci voglio vedere tutta in tiro, disse Bessie. Non credo che siete una di quelle tipe che la gente chiama carine. Non ci avete abbastanza rosso e bianco per esserlo, ma sapete una cosa? Che vi ho sognato molto prima di incontrarvi. Oh, sciocchezze, Bessie. No, no, sul serio. Proprio la vostra faccia con gli occhi onesti e sinceri. Che ci avete voi? Che guardavano fuori nel buio col vento che vi scopriva la fronte, liscia e distesa come adesso. E i capelli che si spandevano come raggi intorno alla vostra testa e venivate sempre a darmi la forza che mi sembrava di prendere dai vostri occhi profondi e confortanti, e ci avevate addosso vestiti splendenti, proprio come quello che metterete. Ecco, vedete, eravate voi. No, Bessie, disse Margaret teneramente, era soltanto un sogno. E perché, accidenti, io non mi posso neanche fare le fantasie come fanno tutti quando sto male. Non lo facevano in tanti nella Bibbia? Sì, e anche avere delle visioni. E perché? A mio padre pure ci piacciono un sacco i sogni, ve lo ripeto. Vi ho vista chiaramente che venivate verso di me tutta di corsa, coi capelli che svolazzavano all'indietro perché ci avevate un passo svelto, così naturali, un po' come spettinati, e il vestito bianco splendente che vi metterete. Oh, lasciatemi venire a vedervi con quel vestito. Voglio vedervi e toccarvi per davvero come ho fatto nei miei sogni. Bessie, cara, è solo una delle tue fantasie. Fantasia o no, siete venuta e io lo sapevo da quando ho sognato che venivate. E quando siete qui con me credo di sentirmi più tranquilla e sollevata, proprio come quando il fuoco dà sollievo in una giornata fredda. Avete detto che è il 21? Oh, per favore, signore, fammela andare a vedere. Oh, Bessie. Puoi venire, sei la benvenuta, ma non parlare così, mi dai un dispiacere, davvero. Allora me lo terrò per me, a costo di mordermi la lingua, ma è tutto vero per me. Margaret restò in silenzio. Alla fine disse: Parliamone qualche volta se pensi che sia vero, ma non adesso. Dimmi, tuo padre sciopera? Sì, disse Bessie a fatica, con un tono ben diverso da quello che aveva usato appena qualche minuto prima. Lui e tanti altri, tutti gli uomini di Hamper e molti altri ancora insieme a loro. Le donne sono delle belve come gli uomini stavolta. Il pane costa tanto e devono pur dar da mangiare ai loro figli, credo. Che ve lo immaginate se i Thornton gli spediscono la cena, tutto quel denaro speso per patate e carne che li fa smettere di piangere tutti quei bambini e alleggerisce per un po' il cuore delle madri. Non parlare così. Disse Margaret, mi fai sentire cattiva e in colpa perché vado a questa cena. No, replicò Bessie, alcuni vengono prescelti per feste sontuose e per lussuosi tessuti di lino color porpora, e forse voi siete una di quelli. Altri sgobbano e faticano tutta la vita, e neanche i cani ci hanno pietà di sti tempi, non come invece accadeva ai tempi di Lazzaro. Ma se mi chiederete di bagnarvi la lingua con la punta del mio dito, io attraverserò l'enorme abisso per venire da voi, soltanto perché penso a che cosa siete per me qui. Bessie, hai la febbre molto alta, lo capisco toccandoti la mano e per quello che stai dicendo. Quel giorno solenne, la divisione non sarà tra chi di noi è stato un mendicante e chi di noi un ricco in questo mondo. Non saremo giudicati per una cosa così insignificante, ma per la nostra fede. Nota. L'autrice qui si riferisce a una parabola del Vangelo di Luca. La parabola citata racconta di un ricco che banchettava tutti i giorni lautamente mentre il povero Lazzaro giaceva davanti alla sua porta, desideroso di mangiare gli avanzi del suo pasto. Una volta morti, il ricco, che era all'inferno, vide il povero in paradiso accanto ad Abramo e gli chiese di intingere nell'acqua la punta del dito e bagnargli la lingua per sollevarlo dai tormenti dell'inferno. Ma Nelle scritture Abramo spiegò che non era possibile perché un grande abisso invalicabile separa il paradiso dall'inferno. Margaret si alzò e trovò dell'acqua e, dopo aver imbevuto il suo fazzolettino, lo posò fresco e bagnato sulla fronte di Bessie e si mise a strofinarle i piedi freddi come il marmo. Bessie chiuse gli occhi, godendosi un po' di quelle attenzioni, poi finalmente disse: "Che uscivate di testa pure voi, come me, se vi capitava che veniva a casa vostra una persona dopo l'altra a chiedere di vostro padre e ognuna si fermava a raccontarmi la sua storia. Qualcuno ce l'ha a morte coi padroni e mi ha fatto raggelare il sangue, mi ha fatto, dicendo cose terribili su di loro. Ma erano soprattutto donne e si lamentavano e non smettevano di lamentarsi con le lacrime che gli scorrevano lungo le guance senza mai asciugarsele né farci tanto caso del prezzo della carne e dei loro figli che di notte non riescono a dormire per la fame. E pensano che lo sciopero metterà a posto le cose?" domandò Margaret. "Loro dicono di sì," rispose Bessie. "Dicono che il mercato è andato a gonfie vele per tanto tempo e che i padroni hanno fatto soldi a palate. Papà non sa quanti, ma il sindacato sicuro lo sa, e naturalmente gli operai la vogliono la loro parte dei profitti, adesso che la roba da mangiare ci costa sempre di più. E secondo il sindacato non fanno il loro dovere se non si fanno dare dai padroni la loro parte. Ma i padroni in qualche modo continuano a spuntarla e c'ho paura che sarà così ora e sempre. È come la grandiosa battaglia di Armageddon, la battaglia finale dell'Apocalisse, il luogo di raduno di tutti i re della terra, giunti alla fine del mondo per combattere Dio. Quel modo di ringhiare e darsi addosso, finché nella fossa non ci finiscono tutti, uno per uno." Proprio in quel momento entrò Nicholas Higgins, che riuscì a sentire le ultime parole della figlia. "E già, e anch'io continuerò a lottare, e ce la farò stavolta. Non ci vuole molto per farli arrendere, perché di ordini ce ne hanno avuti un sacco, e tutti col contratto, e presto si accorgeranno, accidenti, che gli conviene di più darci il nostro 5% che perdere il profitto che potrebbero guadagnare, per non parlare poi della multa perché non lo rispettano il contratto. Ah, cari padroni miei, so io chi vincerà." A giudicare dal suo atteggiamento, Margaret ebbe l'impressione che avesse bevuto, non tanto per quello che disse, ma per l'euforia con cui parlava, e la sua idea trovò chiara conferma nell'evidente agitazione di Bessie, che l'accompagnò alla porta in fretta e furia. Le disse Bessie: "Il 21, il prossimo giovedì, penso che magari ci vengo a vedervi vestita per andare da Thornton. A che ora è la cena?" Prima che Margaret potesse rispondere, Higgins sbottò: "Da Thornton? Non andrete mica a cena dai Thornton? Chiedetegli di darvi un bicchiere stracolmo per brindare al successo dei suoi ordini. Scommetto che si starà scervellando su come fare per realizzarli in tempo. Il 21? Diteglielo, in 700 verranno a Marlborough Mill di corsa, la mattina dopo che avrà concesso il 5%, e in un baleno lo aiuteranno a rispettare il contratto. Ci saranno tutti lì, il mio padrone, Hamper, è uno di quelli all'antica, quando incontra un lavoratore li insulta sempre o gli bestemma dietro, e io dico che muore se mi parla in modo civile. Ma dopotutto, can che abbaia non morde, e glielo potete anche dire che uno dei suoi scioperanti ha detto così, se volete. Ma ci avrete un sacco di industriali di rango da Thornton. Che gusto ci avrei di parlare coi loro quando ci hanno voglia di mettersi seduti a pancia all'aria dopo cena e non ce la fanno a scappar via. Gli direi cosa penso. Chiaro e tondo glielo direi, che sono contrario ai modi duri che usano con noi." "Arrivederci," disse Margaret con una certa fretta. "Arrivederci, Bessie. Conto di vederti il 21 se starai bene." Le medicine e i trattamenti che il dottor Donaldson aveva prescritto alla signora Hale all'inizio la fecero stare meglio, tanto che non solo lei, ma anche Margaret iniziarono a sperare che il dottore potesse essersi sbagliato e che sarebbe guarita completamente. Il signor Hale, sebbene non avesse mai avuto idea della seria natura delle loro preoccupazioni, ebbe la meglio su quelle loro paure e il suo sollievo fu evidente, a riprova di quanto l'aver appena intravisto la loro origine l'avesse afflitto. Soltanto Dixon non smetteva mai di gracchiare nelle orecchie di Margaret, ma Margaret sfidò il corvo e volle sperare. Avevano bisogno di questo spiraglio di luce, almeno in casa, dal momento che fuori, persino ai loro occhi ignoranti, era evidente una cupa e opprimente atmosfera di malcontento. Il signor Hale aveva qualche conoscenza tra gli operai e lo deprimeva ascoltare le storie di sofferenza e lunga tribolazione che gli raccontavano per filo e per segno. Si sarebbero rifiutati di parlare di quello che erano costretti a sopportare a uno che, nella sua posizione, potesse avere tratto le proprie conclusioni senza averle ascoltati. Ma ecco che quest'uomo, che veniva da una contea lontana, sconcertato dal funzionamento del sistema in mezzo al quale era stato catapultato e che tutti non vedevano l'ora di trasformare in un giudice e di presentare come testimone delle ragioni della loro irritazione. Dopodiché Hale portava a Thornton il suo bilancio di tutte quelle lagnanze affinché lui, con la sua lunga esperienza di padrone, le mettesse in ordine e gli chiarisse la loro origine. E lui lo faceva sempre, sulla base di saldi principi economici che dimostravano come, per il modo in cui veniva gestito il mercato, dovessero necessariamente esserci degli alti e dei bassi nel benessere commerciale e come, nel periodo dei bassi, qualche padrone e anche qualche lavoratore andasse in rovina e non facesse più parte della schiera delle persone ricche e felici. Ne parlava come se fosse una conseguenza del tutto logica. Né i padroni né gli operai avevano alcun diritto di lamentarsene se fosse quello il loro destino. Il datore di lavoro dovrebbe ritirarsi dalla competizione alla quale non può più partecipare, amareggiato dal fallimento e dalla propria incompetenza, ferito sul campo, calpestato dai suoi compagni nella corsa alla ricchezza, denigrato anziché onorato come un tempo, condannato a elemosinare invece che a concedere un lavoro pratico per le sue mani delicate. Di certo, nel caso in cui come padrone gli spettasse quella sorte durante le fluttuazioni del mercato, lui non avrebbe verosimilmente maggior compassione per gli operai destinati a essere sempre calpestati nel rapido e spietato stravolgimento. Gli operai dovrebbero rassegnarsi senza reagire e dovrebbero scomparire in silenzio da quel mondo che non ha bisogno di loro, incapaci persino di riposare nella tomba per le grida assillanti delle persone care e indifese che si lascerebbero alle spalle, loro che invidiavano la capacità dell'uccello che vola libero, che può sfamare i suoi piccoli con il suo stesso sangue. Margaret si sollevò contro di lui con tutta se stessa, sentendolo ragionare in quel modo, come se il commercio fosse tutto e l'umanità niente. Faticò a ringraziarlo per la gentilezza personale di quella sera che lo portò a offrirle, e la sua delicatezza gli fece capire di dover fare quell'offerta in privato, qualsiasi cosa utile per la malattia che, grazie al suo denaro o all'accortezza di sua madre, tenevano in casa e che, come aveva saputo dal dottor Donaldson, poteva magari servire alla signora Hale. La sua presenza, dopo il modo in cui aveva parlato, il fatto di averle messo davanti l'inevitabile destino di sua madre, che lei cercava di convincersi di poter ancora scongiurare, tutto contribuiva a indispettire Margaret, mentre lo guardava e lo ascoltava. Che diritto aveva lui di essere l'unica persona, oltre al dottor Donaldson e Dixon, ammessa a conoscere quell'orribile segreto che lei teneva rinchiuso nei meandri più bui e sacri del suo cuore, e che non osava nemmeno prendere in considerazione se non invocando una forza divina per poter sopportare il pensiero che un giorno non molto lontano avrebbe pianto terribilmente per sua madre. E nessuna risposta sarebbe scaturita da quell'oscurità muta e vuota. E invece lui sapeva tutto, lo vedeva nei suoi occhi pieni di compassione, lo sentiva nella sua voce tremula e seria. Come conciliare quegli occhi, quella voce, con il suo modo di ragionare duro e calcolatore, e con quella spietatezza nel formulare leggi di mercato, seguendole con noncuranza fino alle loro conseguenze più estreme? Quella discordanza strideva in lei indicibilmente, tanto più per quell'insieme di sofferenze che sentiva raccontare da Bessie. Certamente Nicholas Higgins, suo padre, non parlava in quel modo. Era stato nominato come membro del comitato e diceva di conoscere segreti che nessun uomo comune conosceva. Si espresse in modo più esplicito e più specifico del solito proprio il giorno prima della cena della signora Thornton, quando Margaret, andando a visitare Bessie, lo trovò che ne discuteva con Boucher, il vicino nominato spesso da Higgins, che a tratti provava compassione per questo operaio inesperto, con una famiglia numerosa da mantenere, e a tratti si arrabbiava perché a questo vicino, meno energico e sanguigno di lui, mancava quello che chiamava spirito. Era chiaro che Higgins fosse infuriato quando Margaret entrò. Boucher era in piedi, con entrambe le mani appoggiate sull'alta mensola del caminetto, si ciondolava leggermente con il sostegno che le braccia, posizionate in quel modo, gli davano, e fissava il fuoco con sguardo folle, con una disperazione che irritava Higgins, sebbene lo colpisse dritto al cuore. Bessie si stava dondolando avanti e indietro, violentemente, come era solita fare quando era agitata. Ormai Margaret l'aveva imparato. Sua sorella Mary si stava allacciando il cappellino, con fiocchi enormi e malfatti che si confacevano alle sue dita goffe e tozze, per andare a tagliare il fustagno, e nel frattempo parlava a voce alta, piagnucolando con un evidente desiderio di allontanarsi da una scena che la addolorava. Fu in questa scena che Margaret fece la sua comparsa. Si fermò un istante sulla porta, poi, tenendosi il dito sulle labbra, andò furtivamente a sedersi sullo squab vicino a Bessie. Vedendola entrare, Nicholas la salutò con un cenno del capo brusco ma non ostile. Mary corse fuori, approfittando volentieri della porta aperta, mettendosi a piangere forte una volta lontana dal padre. John Boucher fu l'unico a non accorgersi di chi fosse entrato e di chi uscito. Non serve a niente, Higgins. Lei non può vivere a lungo così. Si sta indebolendo sempre di più, non perché vuole la carne per sé, ma perché non sopporta di vedere i piccoli che fanno la fame. Già, la fame. 5 scellini alla settimana possono bastare per te, con 2 bocche da riempire, e una di queste è una ragazza che la carne se la può benissimo guadagnare da sola. Ma noi stiamo facendo la fame, e te lo dico chiaro e tondo. Se lei muore, come penso che morirà prima che l'avremo ottenuto il 5%? I soldi ce li tirerò in faccia al padrone, gli dirò: maledetto, maledetto tutto il tuo mondo crudele che mi ha portato via la moglie migliore che c'è e la miglior madre che un uomo può desiderare per i suoi figli. E sta attento, ragazzo, io ti odierò, io odierò tutta quella banda di sindacalisti, sì, ti perseguiterò in paradiso col mio odio, lo farò, ragazzo, lo farò, se mi trascini sulla cattiva strada con sta faccenda. Hai detto, Nicholas, mercoledì di una settimana fa, e oggi siamo a martedì della seconda settimana, che entro 15 giorni i padroni venivano da noi a supplicarci di ritornare a lavorare alla paga nostra. E il tempo è quasi scaduto e c'è il nostro piccolo Jack, che sta a letto, troppo debole per piangere, ma che ogni tanto frigna disperatamente perché vuole qualcosa da mangiare. Il nostro piccolo Jack, ti sto dicendo, ragazzo, non si è più ripresa da quando l'ha messa al mondo, e lui è tutta la sua vita. Ecco quello che è. E scommetto che mi costerà quel caro prezzo il nostro piccolo Jack, che ogni mattina mi sveglia avvicinando la sua dolce boccuccia alla mia faccia pelosa e sporca, cercando una zona liscia da baciare, e si rimette giù affamato. E detto questo, il povero uomo scoppiò in forti e soffocanti singhiozzi. E Nicholas sollevò lo sguardo con occhi colmi di lacrime verso Margaret prima di trovare il coraggio di parlare. Resisti, amico. Il tuo piccolo Jack non morirà di fame. C'ho qualche spicciolo da parte e ci andiamo a comprare all'istante un sorso di latte e 2 bei chili di farina per il giovanotto. Quello che è mio è tuo, sicuro, e tu c'hai bisogno, ma non perderti d'animo, amico mio. Proseguì armeggiando in una teiera per capire quanti soldi avesse. Scommetto anima e corpo che vinceremo. Non abbiamo che da tirare avanti ancora una settimana, e poi vedrai come i padroni verranno da noi a pregarci di tornare alle nostre fabbriche. E il sindacato, cioè io, si occuperà di farti avere quel che basta per tua moglie e i tuoi figli, quindi non fare il debole e non andare a cercare lavoro da quei tiranni. L'uomo si voltò a queste parole, mostrando un volto così pallido, smunto, solcato dalle lacrime, disperato che proprio la rassegnazione di quel viso fece piangere Margaret. Lo sai bene, quel che dice un tiranno è ancora peggio di tutti i padroni. Morite di fame e guardateli tutti morire di fame prima di osare andare contro il sindacato. Lo sai bene. Nicholas, che sei uno di loro. Potete essere buoni, presi uno per uno, ma una volta che vi unite siete dei lupi affamati senza più pietà per nessuno. Nicholas teneva la mano sulla maniglia della porta, si fermò e si voltò verso Boucher, concludendo: Che Dio mi aiuti. Potessi morire se penso che non sto facendo il meglio per te e per tutti noi. Se mi sto sbagliando mentre penso di fare bene, è colpa loro che mi hanno lasciato dove sono nella mia ignoranza. Ci ho pensato così tanto fino a farmi fumare il cervello. Oh, credimi, John. L'ho fatto e ti ripeto, niente ci può aiutare se non avere fiducia nel sindacato. Vinceranno un giorno, vedrai se non sarà così. Né Margaret né Bessie dissero una sola parola. Non avevano quasi emesso nemmeno quel sospiro che i loro occhi a vicenda richiamavano fuori dal profondo dei loro cuori. Alla fine Bessie disse che mai pensavo di sentire papà che invocava Dio di nuovo, ma aver sentito che ha detto che Dio m'aiuti. Sì, disse Margaret, ho sentito. Permettetemi di portarvi il denaro che riesco a mettere da parte e qualcosa da mangiare per i bambini di quel pover'uomo. A loro dirai che sono di tuo padre, non sarà molto. Bessie si distese senza prestare alcuna attenzione a quello che Margaret disse. Non versò una lacrima, le tremarono solo le labbra mentre cercava di respirare. Non c'è più neanche una lacrima nel mio cuore, disse. Sti ultimi giorni Boucher mi ha raccontato delle sue paure e delle sue tribolazioni. Non è che un debole, lo so, ma è pur sempre un uomo e mi ci sono arrabbiata molte volte in passato con lui e con sua moglie perché non sapevano più come tirare avanti e altri come loro, ma vedete, non tutte le persone sono sagge, ma Dio li lascia vivere, già. E gli dà qualcuno da amare e che li ricambia, proprio come ha fatto con Salomone. E che a loro gli fa male se quelli che amano soffrono, proprio come Salomone. Ma che ne capisco io? Forse è un bene che uno come Boucher c'ha il sindacato che vede per lui, ma che mi piacerebbe vedere quegli uomini che fanno il sindacato e metterli uno per uno di fronte a Boucher. Accidenti! Se li prendeva uno alla volta, scommetto che gli dicevano che poteva tornare indietro e prendersi il lavoro che trovava, anche se non erano questi i loro ordini. Margaret rimase seduta, completamente ammutolita. Come faceva ad andarsene, a ritornare al benessere e a dimenticare la voce di quell'uomo con quel tono di indicibile agonia che molto più delle sue parole esprimeva quello che era costretto a patire. Tirò fuori il borsellino. Non conteneva molto denaro che lei potesse definire suo, ma quello che aveva lo mise in mano a Bessie senza parlare. Grazie. Ce ne sono parecchi di loro che non prendono di più e non sono messi così male, o perlomeno non mostrano di stare come lui, ma papà non gli farà mancare niente adesso che ha saputo. Vedete, Boucher l'hanno buttato giù i suoi figli, e lei che è così tignosa, e hanno impegnato tutto quello che potevano quest'ultimo anno. Non pensate che li facevamo fare la fame, anche se siamo anche noi un po' tirati coi soldi. Se non sono i vicini a dare un occhio ai vicini, chi lo fa? Beh sì, sembrava un po' temere che Margaret potesse pensare che a loro mancava la volontà e in un certo modo la possibilità di aiutare qualcuno che avanzava delle pretese. E poi, continuò Bessie, papà è sicuro e ottimista che i padroni cederanno nei prossimi giorni, che non possono resistere molto più a lungo, ma vi ringrazio lo stesso, vi ringrazio per me stessa e anche per Boucher perché mi riscaldate il cuore sempre di più. Bessie sembrava molto più serena quel giorno, ma terribilmente debole e stanca. Quando smise di parlare, le apparve così pallida e stremata che Margaret si spaventò. No, non è niente, disse Bessie, non è ancora la mia ora. È stata una notte piena di sogni terribili. Sempre se erano sogni, perché io ero completamente sveglia e sono tutta in confusione oggi. Soltanto quel poveretto mi ha fatto ripigliare di nuovo. No, no, non è ancora la mia ora, ma non è lontana. Già, copritemi, che magari mi addormento se ce la faccio con sta tosse. Buonanotte, anzi, buon pomeriggio dovrei dire, ma oggi è tutto buio e c'è foschia.